penso una cosa, che voi siete dei giornalisti meravigliosi. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao, buongiorno a tutti. Finalmente ci siamo, tutto azzerato da questa infinita, terrificante sosta per mille ragioni che conoscete, tenendoci le nostre preoccupazioni da non confondere con la psicosi. Non si vede l'ora di guardare l'Europa illuminata da un sacco di grandi partite. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Benissimo, e tu? Sono salito nuovamente su? Sei salito sulla macchina di Emanuele di ieri. O hai cambiato guidatore? Ho il citofono, come sto? meraviglioso. 800 24 00 24. Per tutti quelli che vogliono. Sono in viaggio, speriamo bene, però va bene, sì. Però va bene così, perfetto. Viaggia tranquillo. Bene. Ok. Sì, viaggio tranquillo, per ora tutto a posto. Grande. Cosa commenti nel weekend? Commento Bologna-Roma e insomma è bello vedere, cioè una cosa, so per dire una cosa di una banalità assoluta, però ecco, viaggi in autostrada, vedi la normalità della vita, no? Poi attivo radio. Ti sento più. Adesso è sparito in una grotta, in una galleria, in qualche cunicolo, ma adesso lo riprendiamo, Pardo. 800 24 00 24, dicevo, per chi vuole intervenire. Poi messaggio SMS 349 238 6666, contatto che vale anche per il mio luogo preferito per gli scrittori, cioè WhatsApp, perché mi intriga questo mezzo di comunicazione attraverso il quale scrivete spesso messaggi davvero interessanti. Vabbè, comunque, al di là di questa digressione, voci la vigilia, non vediamo l'ora di tuffarci in un weekend che prevede la partita più importante del mondo, cioè il classico Real Madrid-Barcellona, ma anche in Italia non si scherza. A proposito, voglio chiedervi una cosa: ma secondo voi in questo weekend, nel quale insomma si torna a giocare dopo la sosta, normalmente la sosta, l'ho detto anche ieri, spezza il ritmo a chi corre forte e davanti stanno correndo tutte molto, molto velocemente, spezza ritmo e spezza i giocatori. Ne sa qualcosa il Napoli, ne sa qualcosa la Roma, la Juventus ha recuperato gran parte dei suoi acciaccati, non così il Milan. Ebbene, voglio chiedervi, in questo weekend, secondo voi, partite e calendario alla mano, chi rischia di più? Potete rispondermi come volete, preferisco le telefonate, però come sempre 800 24 00 24. Andiamo a sentire la voce di Allegri. Ha parlato un'oretta fa anche Mihajlovic, quasi in contemporanea stera, a distanza di mezz'ora. Allegri: in questo momento credo che la cosa che noi bisogna pensare come Juventus è quella che domani abbiamo la possibilità di raggiungere il Milan e superarlo in caso di vittoria. È sempre Juventus-Milan, è una delle partite più importanti del campionato italiano, e noi in questo momento il primo obiettivo è quello di scalare un'altra posizione in classifica, e domani abbiamo la possibilità. Poi il secondo obiettivo è quello tra quattro giorni di centrare il passaggio successivo alla Champions. Questo era Allegri della Vigilia. C'è chi ci chiede di abilitare anche Telegram. Che cos'è Telegram? È un simile WhatsApp, mi dice Giorgio De Luca. Perdonate la mia abissale, totale ignoranza, però almeno lo dichiaro. Abiliteremo anche Telegram e tutto quello che volete. Intanto WhatsApp 349 238 6666. Questo era Allegri. Pierluigi Pardo. Sì. Sono qui, no? Ti stavo dicendo che Telegram è un WhatsApp più sicuro dagli attacchi degli hacker, questo mi dicono. Che ridi? Più sicuro? No, mi chiedono di chiederti a che altezza di autostrada sei. Sono... Possiamo farci i cazzi tuoi, sì. Sono a Fidenza, sono al bivio di Fidenza Salso Maggiore Terme, sulla 1. Bene, ti sei geolocalizzato. Adesso sentiamo il traffico che magari ti riguarda. Non lo so, spero di no, spero non ci siano particolari problemi di intoppi. Sentiamo il traffico. Cosa aspetta? Aspetto con il traffico? Andiamo con il traffico e poi ti faccio sentire, dopo Allegri, anche Mihajlovic. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Tutti convocati. Tutti convocati. Noi sappiamo che è la partita importante come tutte le altre, ma sappiamo anche a fischio finale, qualsiasi risultato sarà, che non è una partita decisiva, che c'è ancora tanto da giocare. Cioè bisogna fare, penso che ci sono tutti presupposti, diciamo in un periodo medio-lungo, di essere molto positivi. Mamma mia, Pierluigi! Sì. Come interpreti questa spremuta di banalità di Mihajlovic? Come la soluzione, beh, un po' inusuale nel senso, Il personaggio è un po' inusuale, però insomma è una partita ovviamente a rischio, no? Dal punto di vista delle due squadre. Mihajlovic forse si era illuso di aver trovato finalmente il suo Milan con quelle vittorie, Chievo, Sassuolo, magari non brillantissime, quella con la Lazio invece sì, davvero molto incoraggiante. Poi l'Atalanta è stato veramente un ritorno al passato, quindi sì. Io penso che insomma Mihajlovic un po' di timore giusto, legittimo ce l'abbia prima di questa partita. Sì, vabbè, però secondo me dovrebbe essere lui il condottiero che dà un po' di anima alla squadra. Finché mi dici partita importante, non decisiva, i conti si fanno alla fine, la palla è rotonda, l'avversario è forte, veste la maglia bianca, lo so. Allora, ma problema non solo di questa conferenza di Mihajlovic, c'è un problema abbastanza comune, lo so. C'è chi ti vuole presidente, a te e a me santo, mi sembra un po' eccessivo. Sembra eccessivo, soprattutto se mi consentire faccio il santo io che il presidente c'ha mille rotture di caso. Tanto sta lì e ho chiesto agli ascoltatori chi rischia di più, molti dicono Colantuono, che secondo molti, ma non lo trovo ingeneroso, è l'allenatore sbagliato della peggiore Udinese degli ultimi 20 anni. Secondo me Colantuono qualcosa rischia, anche se ieri Franco Causio ci diceva, lui insomma lavora un siete Channel, Udine parla con i posto, credo, quasi quotidianamente, quindi insomma se ci dice che la situazione non è ancora così rischiosa, ci stiamo. Però con Antonio rischia, secondo me, ha avuto una partenza abbastanza complicata dopo la vittoria contro la Juve la prima giornata. A me contro il Napoli non è dispiaciuto l'atteggiamento della squadra. No, neanche a me. Nel senso che l'Udinese se ne ha provato a giocarsela poi non dimentichiamo aperto, come si diceva una volta, Pressione terrificante. Secondo me sarà insomma se l'ha giocato a viso aperto e poi Garnetti ha fatto un sacco di parate, però ha colpito anche la traversa, insomma spesso si dice che è stata la partita meno brillante del Napoli dell'ultimo periodo, assieme a quella col Genoa, insomma qualche merito ci sarà anche stato. Sì, no, ma poi non dimentichiamo che comunque l'Udinese ogni anno perde giocatori importanti, come nella politica del club, che secondo me è condivisibile. Vuoi salutare tu Aldo Serena? Certo, ci vediamo domani, vero Aldito? È vero, caro Piero, domani. Ci vediamo domani a vedere Bologna-Roma. La Roma senza ali, Aldo Serena, perché la sosta per le nazionali ne ha tagliato le ali, si è fatto male Salah, si è fatto male Gervinho, che domani sarà sostituito dai Turbo, in bocca al lupo Garcia, perché il Turbo è un giocatore fin qui alla Roma terrificante, Aldo. Sì, è vero, è veramente un debacle sotto il profilo degli esterni della Roma. La Roma stava trovando proprio il suo gioco con quei capovolgimenti di fronte, rabbiosi, veloci, determinati, ed ora gli mancano i due artefici di questo gioco. Devo dire che Iago si è anche abbastanza ben ambientato a Roma, di Turbe probabilmente no, tanti problemi al primo anno e poi anche con la rimanenza, il perseverare di dell'allenatore, che non lo ha quasi mai, secondo me, impiegato con costanza, lui si è avvitato proprio sulle proprie una ragione ci problematiche. Sarà, oggetto non identificato, neanche tanto volante, i Turbe nella sua parabola romanista, probabilmente avrebbe anche bisogno di cambiare aria, di giocare con continuità, però se è quello che abbiamo visto negli spezzoni di gara che ha giocato con la Roma anche in questa stagione, non è tantissimo. È troppo frenetico, anche secondo me non è tranquillo. Sicuro non lo è, sicuro. sicuro non è tranquillo come puoi esserlo, cioè d'altra parte sei sotto pressione, no? Tutti ti criticano e tutti notano il fatto che sei uno degli anelli deboli della catena. Ho chiesto agli ascoltatori chi rischia di più in questo weekend in cui la sosta per la nazionale ha spezzato un po' il filo a tutti, ma com'è normale che sia. C'è chi scrive: rischia di più proprio la Juve perché con il Milan perderà, non condivido questo pronostico. Credo invece, Danilo da Verona lo dice per ragioni di tifo, spero che il Napoli rischi molto, forza Hellas Verona. Questo è per ragioni di tifo, ma credo che il Napoli rischierà moltissimo a Verona. Sappiamo anche lì delle assenze, però è una partita non banale quella che si giocherà all'ora di pranzo, Pardo. No, ma di banale non c'è nulla, eh. Secondo me neanche Fiorentina-Empoli è banale e nemmeno l'Inter-Frosinone, anche perché l'Inter è vero che vince sempre, ma vince sempre 1-0, quindi comunque sono tutte vittorie pesanti, raccontano di grande carattere, ma tutte vittorie non così nette. No, io penso che il Napoli sicuramente è favorito contro l'Hellas. È chiaro che qualsiasi pausa, qualsiasi sosta che quindi viene a interrompere, proprio come il time out nel basket, un certo periodo di forma possa cambiare un po' le cose. E questo testa coda fra la squadra che è più brillante in questo momento del campionato, secondo me, e quella che è più deludente, sembra la classica occasione per dire attenzione perché è la buccia di banana. In realtà, secondo me, la realtà tecnica rimane clamorosamente favorevole al Napoli. Verona sta cercando di recuperare Toni, non so se avete l'ultimissimo da questo punto di vista, ma insomma secondo me il Napoli è largamente favorito. Beh, ma è chiaro, sono tutte, anche la Roma è favorita, la Fiorentina è favorita con l'Empoli. Ha un problema strutturale che è appunto legato al fatto, cioè la Roma ha perso due titolari, il Napoli ha perso delle alternative, sì, la Roma è vero. Ha perso due titolari, anche se ti dico che secondo me Iago Falche è un giocatore perfetto, un giocatore che sicuramente ha meno talento rispetto a Gervinho e Salah, ma è un giocatore secondo me perfetto, forse è il migliore per far risaltare le caratteristiche di Dzeko, quindi quella non è secondo me chissà quale grande assenza. Sui Turbe sicuramente paga un acquisto azzardato, adesso lo possiamo dire, da parte della società che ha speso una marea di soldi per un giocatore che ha fatto 8 gol, se non sbaglio, l'anno prima in Serie A col Verona. Sì, uno spezzone di campionato, tra l'altro non sempre giocando titolare, soprattutto all'inizio, quindi è un giocatore di cui si erano intraviste alcune scintille, però i soldi pagati sono quelli di un fuoco vero, cioè di un giocatore vero. Aldo, la partita di Torino, che tu hai giocato un sacco di volte, con una maglia e con l'altra, Juventus-Milan, ho detto tutta la settimana che è una partita di playoff, se fossimo in un altro sport, esatto, ma lo è soprattutto per la Juve. Sì, beh, per la Juve, anche per il Milan è uno svincolo importante per i rossoneri, perché dovessero perdere io penso che le critiche sarebbero feroci su Mihajlovic, e che si è compattato con il suo 4-3-3 proprio a Torino, giocando contro la squadra granata qualche tempo fa, ha trovato un equilibrio, forse non ha trovato ancora la formula migliore per poter essere efficace davanti e con un equilibrio che possa proteggere la retroguardia. Il fatto che anche Bertolacci, con Bonaventura probabilmente spostato a fianco di Montolivo, potrebbe dare sicuramente qualcosa in più nella fase di costruzione, ma lì in mezzo il mediocampo della Juve ha trovato i suoi tre condottieri e quindi hanno forza fisica, hanno capacità di ribaltare l'azione, e quindi qualcosa potrà secondo me subire sotto questo profilo con Bonaventura sulla linea di centrocampo. Sì, detto questo, secondo me, Aldo, il Milan non ha obiettivi da scudetto, diciamoci la verità. Secondo me, anche raccontarci che possa avere obiettivi da Champions League, lasciamo stare la classifica che in questo momento qualche bugia racconta, però guardandolo così il Milan non è a livello di tutte quelle che lo precedono, insomma non è a livello della Fiorentina, del Napoli, della Roma, dell'Inter, nemmeno della Juventus che sta inseguendo ancora, quindi secondo me una sconfitta sarebbe molto più pesante per la Juve, proprio perché potrebbe portare di nuovo un grande casino alla vigilia della Champions League intorno al nome di Allegri. Ci sono diversi spunti in questa partita, è facile individuare quello tra Buffon e Donnarumma, però a me ne intriga un altro, sai Pierluigi, sai quale? Difese contro, cioè quella della nazionale che ha mostrato, che sta mostrando alcune crepe in bianconero come in azzurro, e una coppia ipotetica, ma molto molto ipotetica, di entrambi i colori, Romagnoli nel Milan e Rugani, panchinaro fisso della Juventus, che spolvera la panchina col sedere praticamente ad ogni giro di giostra. però tutti vedono in questa coppia il quello che potrebbe essere futuro. È curioso, eh? Sì, sì, è curioso, e diciamo che sono le due promesse mancate fino a questo momento, anche se sono un po' diverse, perché comunque Romagnoli ha giocato con regolarità, non ha cominciato benissimo da Firenze in poi, poi c'è stata Marassi in espulsione, insomma, diciamo, non è stato sicuramente il giocatore brillante che era lecito potersi già aspettare, però probabilmente è proprio giovane, magari Mexes può diventare il leader, sì, ha bisogno di, che gli può dare. Io ha bisogno mi ricordo di, qualche di mese fa quando proprio si giro perché mi dissi favorevole, insomma, alla prudenza che aveva avuto Berlusconi nel non mandare via Mexes. Insomma, è chiaro che se tu hai, non so, Benatia e decidi tu chi, sì, due difensori partenti, Mexes non brucia mai in campo, ma con la situazione del Milan attuale mi sembra che Mexes sia uno che se la può giocare tranquillamente con, sì, più con di Zapata, Alex che domani sarà titolare, più di Zapata, esatto, certamente più di, più, lì, ha bisogno lì, di personali, ha bisogno di un giocatore magari non più verdissimo, ma con personalità vicina, magari che gli lanci due strilli. Il paradosso di Juve-Milan, Carlo, è che il Milan è avanti alla Juve addirittura in classifica, ma viene percepita come una squadra in crisi, esatto, in crisi e molto mediocre. La Juve invece, nonostante il ritardo, giustamente secondo me per quello che ha fatto gli anni scorsi, continua a far paura lì davanti, no? Sembra sempre che sia sul punto di poter finalmente esplodere in positivo, quindi questo è vero secondo me il paradosso. E poi la sfida fra Gigi e Ciccio mi sembra una grande, Gigi e Gigi, una grande cosa. Gigi e Ciccio. Uno 20 anni di porta, l'altro 16 anni di età. Aldo, un'ultima cosa, sceglimi una coppia d'attacco per la Juventus, perché Allegri ha detto a Dybala sto pensando, però dovrebbero giocare Mandžukić e Morata. Mandžukić recuperato e Morata, insomma, che è titolare. Sì, è spesso questo inizio di stagione, nelle partite di alto profilo Dybala è andato in panchina, ed è secondo me uno scandalo, perché Morata e Dybala sono i due giocatori giovani, due investimenti forti che l'Juventus ha fatto, due giocatori bravissimi sotto tutti i punti di vista. Io penso che un giovane, e parliamo anche, faccio riferimento anche ai Turbe, quando si fanno grandi investimenti, le grandi società spendono tanti denari per un giovane, il giovane va sostenuto. Sono io non d'accordo. Sono d'accordo sono con d'accordo. Quelli, anche alcuni allenatori che dicono no, in panchina deve stare panchina perché deve entrare piano piano nell'equilibrio del gioco, deve capire bene i meccanismi della grande squadra. Io penso il contrario, penso che un ragazzo giovane abbia bisogno di sentirsi stimato da parte dell'allenatore, della società, di sentirsi forte sotto questo profilo, e allora d'accordo, si carrozza, Aldo, e d'accordo. Deve dare continuità alle proprie prestazioni e devi dargli anche un minimo spazio per sbagliare, consentimi, se hai, esatto, fatto un investimento di questo tipo devi anche dargli un minimo spazio per sbagliare. Poi Dybala le qualità le ha, lo sappiamo, lo vediamo, lo dicono tutti, non sarà una bugia, e sono d'accordo con te sul fatto che la coppia d'attacco ideale sarebbe proprio quella dello spagnolo e dell'argentino. Mandžukić può giocare nel ruolo che è stato di Llorente l'anno passato. Su sì, questo... resta anche un punto di domanda per Mandžukić, perché via Llorente, dentro Mandžukić con un sborso abbastanza pesante, esatto, di denari. Uno via zero e l'altro pagato. Sì, sì. Ecco, sì, non c'è molta differenza, anzi, insomma, io penso forse che Llorente oramai avesse compreso tutti i meccanismi della Juventus, e anche quelli sia in campo che fuori. Mi sembrava, ecco, un giocatore che nel quarto d'ora finale aveva qualcosa in più di Mandžukić. Sì, la variabile tattica, aveva capito il suo ruolo, e poi non aveva neanche pretese di minuti o di essere il centro della squadra, era perfetto secondo me in quel ruolo. Aldone, grazie. Grazie a voi. Buon viaggio verso Bologna, Pier, dove Pier sta andando e dove adesso gli regaliamo le informazioni sulla borsa a cui è particolarmente legato. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta. Tutti convocati. Pierluigi! No. Noi ci onoriamo del fatto di essere una radio di servizio, vero? Certo. Quindi io ho due fondamentali domande esistenziali da girarti. Sì. Posso? Una direttamente rivolta a te, allora è questa: per il fantacalcio chi metto nel tridente tra Dzeko, destro, Vasquez e Quagliarella? Tra Dzeko, destro, Vasquez e Quagliarella? Sì. Beh, nel tridente metterei sicuramente Dzeko. Sì. Io metterei anche destro, francamente. La Roma è una squadra che segna, ma sicuro? Concede. Poi destro, un solo precedente contro la Roma, gol 9 maggio Milan Roma. E quindi rimane poi il ballottaggio fra Quagliarella. Quagliarella ce l'ho anche a Fantacalcio. Andiamo con Quagliarella. Andiamo con Quagliarella, che ha più gol nei piedi. Lo so, ma prima o poi. Però è una fase un po' complicata per Quaglia. Anzi, dai, datela svegliata, Quaglia. Su. No, ha cominciato bene. Quindi Dzeko, destro e Quagliarella nel tridente. Sì, beh, insomma, secondo me Dzeko e destro sicuri, e poi fai anche il gol. No, io metterei Quagliarella. Poi faccia come gli pare anche l'ascoltatore. La seconda domanda di servizio, prima di Francesco da Bologna, Moreno da Prato, che sono in linea già da prima della borsa 800240024. La seconda domanda di servizio. Ma un ascoltatore chiede: ma giocando a mezzogiorno, a che ora Higuain se magna i frutti di mare? Questa francamente faccio fatica. Questa è dura, colazione con le cozze dopo la partita perfetto, un bel pranzo spagnolo al 4-4-4 e lì cozze, vongole a profusione. Francesco, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Grazie a lei. Siamo da Bologna e secondo me la Roma si deve preoccupare molto, perché Bologna è ripresa, la Roma è una squadra discontinua e poi questo nuovo allenatore, che è nuovo per il Bologna ma è una vecchia conoscenza, può rubare almeno un punticino alla Roma, dai. Condivido la fiducia bolognese. Condivido la fiducia bolognese, forza Bologna di Francesco, naturalmente, ma insomma è una partita in cui la Roma rischia molto per motivi oggettivi che ha detto Francesco, perché Pardo si sente che destro potrebbe essere un pericolo per la Roma, nonostante sia probabilmente il giocatore più deludente tra i big, il più deludente del campionato fin qui. Sì. No? Sì, un gol solo contro l'Atalanta, un digiuno non teniamo appunto da quel famoso 9 maggio. No, io ti dico appunto, fra Bologna-Roma e Verona-Napoli, se ragioniamo razionalmente, poi il calcio spesso smentisce la razionalità, è chiaro che Bologna-Roma è quella più equilibrata, perché la Roma comunque ha perso due titolari importanti, perché il Bologna rispetto al Verona sta bene, cioè il Bologna nelle ultime due partite ha fatto 6 punti, 5 gol fatti nelle ultime due gare, ne ha fatti 6 nelle prime 10 contro i rossi, nessun gol subito, quindi due clean sheet, due partite da imbattuti contro una sola nelle prime 10 gare. Il Bologna nelle ultime due partite è un'altra squadra, quindi questo è un elemento oggettivo. Sì. In più ci sono le difficoltà, diciamo, di formazione della Roma. Detto questo, vale il discorso che facciamo prima, cioè la Roma è più forte del Bologna, se fa una buona partita vince. Però secondo me Verona-Napoli un fatto così, diciamo, di stellone, no? Di dire è la prima, non è la prima, ma insomma è la squadra più in forma contro l'ultima, stai a vedere che succede. C'è anche i guai, sì, però lì ci sono anche altri fattori al di là dei Mertens, tornato, Mertens e Gabbiadini fuori, Higuain che ha fatto una montagna di chilometri. Gabbiadini, guarda, hanno perso tutte e due esterni in questa pausa. Beh, ma Gabbiadini però è il backup di Higuain. No, Gabbiadini è sicuramente il backup, però Insigne si è ricordato di contro in questi riposato, per modo di dire, ma insomma non è andato con le nazionali. Secondo me su Verona-Napoli, ti ripeto, il fatto di dire la buccia di banana nasce un po' da... quando c'è un rigore tutti dicono, c'è sempre uno... O segna o sbaglia... No, se stai in un pub c'è un rigore, lo sbaglia, se lo sento che lo sbaglia. Non ci sarà una volta su 10 persone che non c'è uno che prova a fare il fenomeno e dice... Senti, lo sbaglia. E poi secondo me è la stessa cosa. Detto questo, poi per carità il Verona prima o poi dovrà sbloccarsi, se torna Toni ovviamente è importantissimo. È un fatto secondo me di grandi numeri, ecco. Sì, no, su Bologna-Roma secondo me c'è qualche ragione un pochino più oggettiva per considerarla una partita di certo che qui, Bologna ha cambiato 4-0 e il Napoli perde, può succedere di tutto. Bologna è cambiato con Donadoni, ha una faccia diversa, cioè certe volte spiace ammetterlo, ma ha cambiato allenatore, ma senza guardare al Borussia Mönchengladbach, che è una cosa che ha numeri straordinari, però certe volte insomma la sterzata è necessaria, ma probabilmente quando dentro la squadra c'è qualcosa di rotto, come magari c'era a Bologna. Moreno Prato, buongiorno. A proposito, sai che buongiorno Carlo, buongiorno Moreno, Pierluigi. Buongiorno. Sai che Higuain, mi diceva Giorgio De Luca, è il giocatore che gioca nel campionato italiano che in questa sosta ha fatto più chilometri, oltre 26.000 chilometri su e giù per il Sud America. Moreno, non guidava lui. Perché Dybala si è fermato a Torino? Dybala si è fermato a Torino. Ciao Carlo, buongiorno Pierluigi. Ciao, dimmi. Allora, io volevo fare, con tutto il rispetto al grande Pierlu, un appunto, perché allora io tutti i giorni vado a pranzo dalla mamma, io sono tifoso juventino e c'è mio fratello e mio babbo che sono tifosissimi viola, e anche oggi puntualmente non c'è un servizio che riguarda la prima classifica. Come si dice da queste parti? Salutate la prima classifica. Salutate la capolista. Salutate la capolista. È stato mandato addirittura un servizio su Schelotto. Che non sì, poi ne voglio parlare, però Moreno, Schelotto mi interessa, ma la Fiorentina dove? Aspetta, servizio dove non lo so, dove è stato mandato il servizio su Schelotto, scusi? Dove l'ha visto? Ritengo sia l'importante. No, aspetti, dove è stato mandato? Certamente, salutiamo la capolista. Sport Mediaset. È stato mandato un servizio su Schelotto. Sì. Ma Schelotto, Schelotto con la clausola rescissoria allo Sport di Lisbona 45 milioni di euro, a me fa impazzire. Farise, Moreno, sa che cos'è? No, che la Fiorentina un c'ha difetti in questo momento. È come guardare. Mi dica, secondo lei, qual è la donna più bella del mondo? La Fiorentina non ha difetti, però no. Purtroppo. Chi è la donna più bella del mondo, secondo lei? La viola. Ah, no, io sono tifoso Juventus. Capito. Vabbè, ma non è la donna più bella del mondo, non è la viola. Prendiamo chi insomma, avrei un ampio imbarazzo della scelta. Comunque, lunedì abbiamo una promessa che spero verrà rispettata di avere qualcosa di viola. La Bellucci. Quindi no, a parte la bella Bellucci non ce l'abbiamo lunedì, abbiamo Melissa Santa, però insomma, con la Fiorentina sapete che doveva venire la settimana scorsa qualcuno, poi è stato un problema veramente logistico, tecnico, e quindi io insomma spero e tornerò alla carica, davvero stalker quale sono, anzi magari se c'è Elena Turra o Luca che ci stanno ascoltando o Daniele Pradè, insomma dovremmo avere sicuramente Tiki-taka, guarda, anche noi stiamo lavorando duramente, ragazzi, io ve lo giuro, stiamo lavorando duramente con tutti quanti gli uffici stampa, ma in questi giorni in particolare per provare ad avere protagonisti, ma anzi ribadiamo, vi assicuro anche il concetto inverso, cioè che noi siamo anche, cioè vale anche l'autoinvito, assolutamente, anzi non c'è cosa più bella a Tiki-taka, succede ogni tanto, devo dire anche a tutti i convocati, quando qualcuno ti dice ma quando è che posso intervenire, lì è stupendo e qualche cosa succede. Quindi sì, ma capita anche a noi, ad esempio Massimo Mauro, dove sei? Tra un po' ti chiamiamo, se non ci chiami tu ti chiamiamo noi. Massimo Mauro è uno dei nostri convocati più illustri. Luca Marchegiani oggi sta giocando a padel, ma la settimana prossima ce l'abbiamo. È vero, sta giocando a padel, del resto a padel. La roba lì con le padelle. No, e comunque poi rimane il solito discorso che abbiamo fatto mille volte, lo rifaccio perché mi va di essere impopolare e però molto onesto, e l'abbiamo detto mille volte per quanto riguarda giornali nazionali, televisioni nazionali e anche radio nazionali, è ovvio, ma basta prendere la Gazzetta dello Sport, cito il giornale sportivo che vende di più, anche se adesso io collaboro per un altro, ma cito la Gazzetta dello Sport con grande piacere. È ovvio che insomma Inter, Juve e Milan abbiano quasi sempre una loro prevalenza, anche quando vanno male. Detto questo, la Fiorentina merita un applauso senza se, senza ma, incondizionato, gioca un calcio meraviglioso. Le ha troppo bella, un c'ha difetti. Una squadra così bella non non ti nascondo che mi farebbe piacere che potessero stare fino alla fine. Ma ci, su questo non c'è dubbio, calcio, come si dice. Su questo non c'è dubbio, Fiorentina lì davanti finché si può, ma non lo dico per piaggerie o per accontentare gli ascoltatori che tra poco ricominceranno a chiamare, non si parla mai della Viola. Lo speriamo davvero, perché è un fattore meraviglioso di questo campionato così incerto. Ci fermiamo per il traffico, siamo già in ritardo, poi andiamo in Spagna subito da Filippo Maria Ricci. Però il pubblico è un po' moscetto. Tutti convocati. Tutti convocati. Ciao Filippo Maria Ricci, Madrid, ciao. Gazzetta dello Sport e noi. Ciao Phil. Come andiamo? Non male, non male. Insomma, il periodo. Però Filippo si trova davanti al palcoscenico mediatico calcistico più importante del mondo in questo momento. Anche davanti a 2600 si trova, perlomeno si troverà tra 28 ore, no? Esatto, siamo qui con un Rafa Benitez decisamente nervoso, eh? Sì, sì, battibecco con Radio Marca. Una presunta, perché loro dicono, quelli di Radio Marca dicono che i giocatori gli hanno chiesto di giocare all'attacco e lui dice che questa informazione è falsa. È falsa. Cioè, vogliono giocare. Vogliono giocare tutti dietro. No, è falsa nel senso che la riunione non c'è mai stata. Lui dice, però no, probabilmente qualcosa è successo e restano tutti i dubbi sulla formazione che avevamo ieri, l'altro ieri e che avremo fino a domani. Tutto ruota intorno al magico mondo di Casemiro. Sì, dai. Questo brasiliano, l'unico giocatore difensivo che ha. Fammi piacere, dai. No, ma secondo te domani gioca per non perdere il maestro del catenaccio iberico? Io gioco sempre per vincere, l'ha detto 3 volte. Sì. Pareggio ci può stare. Un pareggio ci può stare, come se ci può stare, però è chiaro che no, vediamo, guarda, la formazione è importante. Vediamo come veramente, cioè, voi dovete, lo so, io vi chiedo con forza, bisogna teletrasportarsi in questa realtà assurda che è il Bernabeu, che è il madridismo, che è il Real Madrid. Per cui se al madridista vede Casemiro e gli viene un po' di c'erano le budella. Sì, ma hanno ragione, perdonami. Ma hanno ragione, ma dai. Hanno ragione. I campionati si vincono pure piani, si vincono con quelli che danno equilibrio, si vincono con Il nostro amico amato Carlo Ancelotti, senza Casemiro la Liga non l'ha vinta perché non c'era equilibrio. Non puoi giocare con James, Benzema, Bale, Ronaldo, Kroos e Modric, perché qualcuno dovrà difendere lì, dovrà dare una legnata a Busquets che è super in forma, ragazzi. Casemiro deve giocare. Io sto con Rafa. Pardon, tu con chi stai? Io no, con Rafa non sto, ma sto con Casemiro. Proprio, cioè, siamo nell'insieme della vita, siamo coppia di fatto. Tutte le grandi squadre, ma adesso sinceramente tutte le grandi squadre non possono prescindere da qualcuno che dia equilibrio. Poi sicuramente, per esempio, il Real Madrid di Ancelotti, che ha vinto l'ennesima, l'ha vinta anche con l'intuizione di Di Maria centrocampista, che quindi era un'ulteriore iniezione di qualità, però anche di quantità in mezzo al campo. Ma insomma, Bonini, no? Bonini e Platini. E con Platini che diceva io posso anche fumare, tanto c'è Platini che corre per me. È importante che non fuma lui. Ho capito, però in questo momento secondo me Benitez deve, con il Barcellona che sta provando ad andare in fuga, se vince domani va in fuga e non lo beccano più. Sì. Domani ha bisogno di dare anche al Bernabéu un segnale di coraggio, secondo me. Sono d'accordo con te, però attenzione, appunto, siccome la partita è rischiosa, se la perde va a meno 6. Magari certo, cominciare, intanto vediamo se c'è Messi o no. Questo è fondamentale, c'è Messi o no? Non lo so, Luis Enrique parla alle 4, per cui adesso dopo ne sapremo di più. A me sembra che il ragazzo voglia giocare, e se lui vuol giocare gioca. È come Buffon, come altri giocatori, no? Decide lui quando giocare o quando non giocare. La maglietta però è lì, se vuoi te la metti. Se riescono a convincerlo che è rischioso, che non vale la pena, che magari basta mezz'ora, però questo lo vediamo più tardi. Però io sono d'accordo con te, Carlo, è chiaro che deve dare un segnale anche al Pueblo. però sì. Attenzione, perché appunto il se poi dopo la gente vuole vincere e magari con Casemiro hai una maniera, insomma, hai una strada in più per vincere forse, perché ti dico quei tutti quei, diciamo, quegli attaccanti l'abbiamo visto, tu dici prima per Luigi menzionava la decima e Di Maria, sì, ma la decima sono meno partite, qua la liga è lunga e senza un uomo, certo, di no, la vedo dura. Ma io sono del partito di Capello del doble pivote, quindi figurati, sono Capello ha vinto il campionato lì, insomma, Filippo, esatto, sì, ma non l'hanno preso bene, però non l'hanno preso bene. Ho capito, hanno vinto il campionato, però se lo ricordano, però se lo ricordano. Possiamo parlare, io veramente, io su queste cose qui gli spagnoli non li capirò mai, veramente non li capirò mai, nel senso che mi piace l'idea del calcio offensivo, ma che non sia un'etichetta, anche perché il calcio offensivo deve essere un calcio offensivo equilibrato, non può essere un calcio offensivo nel quale poi vai in difficoltà, e sì, mi sembra, esatto, che tutti, come fa il Barça? Il Barça l'equilibrio ce l'ha, il Barça il suo Busquets ce l'ha lì a lignare, o Mascherano o tutte e due. Insomma, per me è quello, gli manca, gli è sempre mancato. Cioè, sono qui, ancora rimpiangono che la cacciata di Makelele. Sì, vuol sì. dire, Makelele giocava con Solari, Zidane, Ronaldo, Figo e chi era? E Beckham. Insomma, però c'era Makelele. Senza di lui la vedo dura. Poi è chiaro che insomma, sarebbe meglio fare questo super calcio offensivo con tutti i grandi giocatori, però l'anno scorso l'abbiamo visto, insomma, no, ma esiste tutto è drammaticamente complicato, come in una celebre frase, dalla presenza dell'avversario, quindi sarebbe bellissimo, però poi c'è anche un altro, quando quest'altro attacca devi comunque portargli via il pallone, essere veloce nel recuperarlo, in qualche circostanza anche fermarlo con le cattive se non riesce a fermarlo con le buone, quindi per me è un discorso talmente astratto quello che non... Poi è ovvio che le grandissime squadre devono avere una forza offensiva di un certo tipo e una mentalità offensiva, cioè sarebbe grave se Real Madrid entrasse in campo pari in casa sua contro il Barça pensando al pareggio, pensando a difendersi, questo sarebbe gravissimo, ma un giocatore come Casemiro o comunque un giocatore con quelle caratteristiche è un giocatore che può essere offensivo indirettamente, perché può essere il giocatore che attraverso il recupero del pallone e attraverso la libertà che concede agli altri di fregarsene un po' di più della fase di non possesso dà una mano, ma insomma proprio parliamo della PC. Sì. Ma questa, guarda, posso dirti, secondo me è una roba proprio da veramente una roba seguroliana, no? Da Segurola, grandissimo, per carità, grandissimo giornalista spagnolo, cioè fa parte proprio di un certo tipo di cultura. Ma è chiaro, ma lo sappiamo, ma quanti ne hanno fa, 40 scusa, anni fa Brera con la partita perfetta, certo, che ma quanti ne hanno bruciati sul rogo di un calcio che vinceva, non era spettacolare. Ragazzi, vi devo salutare, ciao Filippo, ciao Pierti, Bologna, aggiornamento traffico. No, noi aggiornamento GR subito e poi torniamo. Tutti convocati. Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Convocati. Stavo leggendo tra le altre cose alcune dichiarazioni di Toir sull'Inter, sul suo futuro mercato. Toir che allontana l'idea di Andrea Pirlo. Lui è un grande giocatore, ma a centrocampo abbiamo molte valide alternative, alcuni giovani promettenti. Ovviamente valuteremo le opportunità che il mercato offrirà, ma come ho sempre detto abbiamo bisogno di giocatori validi per il progetto del club, non solamente da mettere in mostra. So che i tifosi vorrebbero che comprassimo sempre nuovi giocatori, oggi però abbiamo molti elementi arrivati dal mercato estivo, alcuni che sono con noi da più tempo, eccetera eccetera eccetera. Insomma, non è un intenditore di calcio, però è il proprietario dell'Inter e ha tutti i diritti di dire abbiamo 9 nuovi acquisti che Mancini è stato bravo a inserire, quindi ce ne sono molti. Insomma, Pirlo che stia pure negli Stati Uniti. Stavo anche leggendo molte altre cose WhatsApp vostri, molto divertenti nella maggior parte dei casi, 349 238 6666. E saluto Cristina della provincia di Bergamo, che parla di Schelotto, oltre a raccomandarci di parlare un po' di più delle piccole, segnatamente dell'Atalanta, eccetera, cosa che ci piacerebbe molto fare, ma se ci chiama ne parliamo. Schelotto era a Bergamo qualche anno fa. Chi mi sta chiamando su WhatsApp, non rispondo alle chiamate, ma magari proverò a rispondere alle vostre, ai vostri messaggi vocali, mi piacerebbe molto. Vediamo se riusciamo ad attrezzarci. Morale: Cristina scriveva che Schelotto non era un gran giocatore, ma era un buon corridore. Sì, però prendere un mezzofondista, cosa che ha fatto lo Sporting Lisbona con un mezzofondista che nelle ultime stagioni ha chiaramente fallito ovunque abbia calcato il campo. Contratto di un anno con opzione per altri tre, ma soprattutto sorprendente la clausola recessoria da 45 milioni di euro per Ezequiel Schelotto, che andrà a far compagnia, dicevo, ad Aquilani, che gioca lì dall'inizio della stagione come al solito a corrente molto alternata, solo 5 partite e un gol su rigore per Aquilani. Mario, provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno. Dica. Innanzitutto vi faccio i complimenti, che scusate ma non sono mai banali, perché secondo me mi avete tutti i diritti e siete bravissimi. Beh, grazie, grazie. Poi volevo fare una disamina velocissima da Juventino da 50 anni, quindi proprio dentro. Vi chiedo un'analisi a questa cosa qua. Allora, 17 infortuni muscolari, sì, tutti muscolari, ok? Rugani non ha messo piede in campo. Non ho il conto Dybala, esatto, ma le credo sua parola. Ci fidi? No. 17 è l'ultimo recuperato velocemente. Le cartelle cliniche sotto mano, ma sì, sono sì, tanti. Rugani in panchina, non ha visto il prato verde. Dybala fa la riserva, Morata fuori ruolo, Alessandro non gioca, Pogba fuori ruolo, Coman ceduto, Neto se ne vuole andare via, Zaza non gioca e soprattutto Berardi non riscattato e lasciato a Sassuolo. Allora, le sembra un bilancio normale per un allenatore che deve allenare la Juve? Secondo me questo rema contro la Juve, perché ha fatto di tutto. Cioè, lei analizzi queste voci qua e poi mi dica se ce n'è una che ha una giustificazione. No, mi sembra un po' velata di pessimismo, però Mario, in questo caso su Berardi possiamo, se vuole, parlarne. Dybala non è una riserva, ma è in ballottaggio, anche inspiegabile se vuole, con Mandžukić e Morata per due posti. Secondo me la composizione ideale sarebbe Morata, Dybala, e l'abbiamo già detto prima con Serena. Quanto ad Alessandro, evidentemente Allegri non lo vede, anche se è stato pagato un sacco di soldi e anche se era reduce da eccellenti stagioni, perché era un giocatore nel suo ruolo tra i top d'Europa, no? Fino a che giocava nel Porto l'anno scorso. Quanto a Rugani è un mistero anche per me, il fatto che non giochi. Probabilmente Allegri vuole continuare ad affidarsi alla vecchia guardia, però non credo che Rugani possa permettersi di passare una stagione sul pino, come dicono gli americani. Quanto a Pogba è una straordinaria mezzala, io non lo vedo come trequartista, però dovrebbe dimostrare un po' più di personalità, e anche questo l'abbiamo già detto. Poi non lo so se sia tutta colpa di Allegri, quanto lei gli imputa per quanto riguarda la voce del mercato, perché magari Allegri voleva anche altri giocatori. Quanto invece al bilancio infortunati, mi scrive Giorgio De Luca che sono 16 infortuni muscolari, 5 sono da sovraccarico. In quei 5 da sovraccarico i giocatori sono stati fermi tra i 3 e i 6 giorni, cosa che, come capita, durante la stagione. Io credo che invece, al di là di questi dati, credo che la Juventus stia anche pagando un po' banalmente la preparazione affrettata, si è radunata per ultima, ha fatto le sue tournée, e quindi questo fatalmente lo sta pagando, ma soprattutto perché si tratta di una squadra nuova. Poi continuo a pensare che il grande assente in questa Juventus sia il trascinatore che aveva là davanti e che si chiamava Carlos Tevez. Paolo da Milano, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Io infatti sono juventino anch'io e penso di aver diametralmente opposto a chi mi ha preceduto, al mio collega. Infatti volevo parlare di Dybala e discorso di Tevez. Io a volte ho l'impressione che una gran parte della differenza rispetto all'anno scorso sia dovuta al fatto che prima c'era uno come Tevez che faceva più o meno i gol di Dybala, ma perdeva un pallone a partita su 20 che ne giocava. Era anche una cosa, sì, ma era anche una questione di personalità, di carisma, cioè giocare con, certo, uno come Tevez. È giovane, è chiaro. Però io mi permetto di dire, l'impressione che ho quando Allegri dice che Dybala deve maturare, che per questo che lo usa col contagocce, è che pensi proprio a questo. Non è ammissibile che per un gioco che ha la Juventus, un gioco moderno, perdere 18 palloni a partita, anche se poi mi fai un gol ogni due partite. Ma matura giocando o stando seduto? E anche stando seduto, secondo me, ascoltando magari gli anziani durante la settimana. Ma secondo me un giocatore di 22 anni con quelle caratteristiche, con quel talento, meglio se gioca, meglio se gli anziani li ascolta in campo, e qualche volta è meglio anche se gli anziani non rompono troppo le scatole, perché questa storia del nonnismo alla Juventus mi sembra abbastanza accentuata, quindi qualche volta è meglio se il giovane ha personalità che faccia a 22 anni, quindi non un bambino, possiamo parlare di Donnarumma, ma lui non un bambino, e qualche volta è meglio che gli anziani si facciano i fatti loro o che il ragazzino abbia la personalità per rispondergli come magari a 22 anni Tevez faceva. Che piacere, Maurizio Crosetti. Eccoci qua. Pubblico, un nonnismo, certo. Non hai ragione, di più. Sì. Di più. Sì, anche perché, scusami, ma le ultime amnesie, diciamo così, la Juve, trasferite purtroppo anche in nazionale, sono state dei nonni, non dei nipoti. È bravo. E quindi alla fine. Sì, però ai nonni non si può dire niente. Ai nonni non si può dire niente. No. Siamo un paese più che mammista, nonnista, direi. Si offendono, i nonni si offendono. Quindi Rugani, che stia pure seduto sul pino, però esatto. giocano quegli altri fino a consunzione fisica. È così. Senti, è da ieri che volevo chiederti quando torno a scrivere un libro. In questi giorni stiamo parlando un sacco di libri. Sul calcio, sul ciclismo, sul calcio, su quello che ti pare. No, guarda, chissà. Magari, ma chissà, tra qualche mese. Chi può dirlo, dai. Non so. Forse qualcosa bolle in pezzo. Ah, non su Buffon, forse. Però, perché lì servirebbe un po' tanta retorica, un po' troppo zucchero. E perdonami, io ti voglio bene, ma non è proprio nelle tue corde, Forse no, ma poi è stato già anche fatto. E poi ci sono personaggi che si scrivono da soli, e quindi sì. Va bene così. Ma no, Buffon è un'enciclopedia vivente, non ha bisogno di. Perché è stato fatto un bel libro, l'ha fatto con Roberto Perrone, validissimo collega del Corriere. Però sono appunto tutto il resto è letteratura, come si dice, tutti i gesti suoi sono letteratura, che non ha bisogno di pagine. Sì, se poi fa un po' meno il nonno lo preferiamo, lascialo dire a me. Sì, ma perché sai, quando si invecchia un po' tutti si brontola, non è giù, ma non va bene, se Buffon vecchietto e West non vogliamo, deve essere ragazzino dentro e fuori fino a quel giorno famoso che già lui ha annunciato, prima o poi verrà, quando si accorgerà che non è più il caso. Spero per lui che dica basta dalla sera alla mattina, come fanno i grandissimi. Certo, solo hai ragione, ma sai, anche per i grandissimi è molto difficile capire quando è quel momento, perché non ne hanno proprio voglia. lo dici a me, ho fatto un libro con Del Piero, un grandissimo che non è riuscito, e glielo dicevo in grande amicizia ma anche in grande franchezza, non è riuscito a capire che sarebbe stato opportuno prima dell'India, prima di cose strane, dire basta, perché il tempo lo dice per te, quindi è più dignitoso che non fartelo urlare tutti i giorni alle orecchie che è finita. Dillo tu e arrivederci. Secondo me varrebbe anche per Pirlo, ma varrebbe per chiunque, vale anche per alcuni giornalisti che continuano a scriversi addosso in età ben post pensione, per dire, per non parlare sempre degli altri, no? Voglio dire, sì. Per Pirlo, sì, ma per chiunque si crede indispensabile quando il suo tempo è passato. Ascoltaci, invece c'è il titolo di un libro che mi tormenta, magari sarà un po' macabro dirlo, però a te lo dico in tutta confidenza, c'è il titolo di un libro che mi tormenta mentre ci avviciniamo al weekend. È un libro, non il migliore, di Manuel Vázquez Montalbán, di cui ho letto tutto, e si intitola Il centravanti è stato assassinato verso sera. Effettivamente, che dire, il rischio è sempre quello di fare i sapientoni, i visionari post-datati, perché l'avevano detto, l'avevano pensato. Io ho sempre pensato, purtroppo, che il territorio di estrema fragilità è lo stadio, solo in apparenza di grande controllo e di grande presidio, un presidio tra l'altro abbastanza buffo, qualche volta anche contraddittorio, perché presidia i tappi delle bottigliette di plastica, di acqua minerale, magari dei bambini, o gli accendini dei nonni, e poi entrano le lame, le bombe carte, eccetera. Però appunto in questa presunzione di controllo, che è solo invece una moltiplicazione di confusione, di burocrazia, la tessera del tifoso, i tornelli antipaticissimi, tutta questa presunzione che ha creato problemi alle persone civili e tranquille e non ha evitato nulla della follia e della violenza di quelli sì. non tranquilli, ci ha convinto tutto questo apparato, tutto questo ambaradan, che quello sia un luogo sicuro e impenetrabile. E in realtà, purtroppo, come molti luoghi di massa, quello è un luogo facilmente violabile, e quindi, anche se poi peraltro a Saint-Denis non sono entrati, questo va anche sottolineato, sì. sono entrati ovviamente ai negozi, al Bataclan, ma sì, Saint-Denis sì, per sì. fortuna no, per fortuna no. Però il timore che effettivamente possa essere usato in maniera clamorosa lo stadio è un timore che io ho da ben prima del libro di Montalban, speriamo che non succeda mai, ma in realtà secondo me no, poi succede, non mi stupisco. Ecco, no, questo. Ma poi guardiamo la partita che tutto il mondo vuole vedere, no? Domani sera a Madrid. È chiaro che sarà. Questo cambierà l'abitudine degli spagnoli. Ci raccontava anche Filippo Maria Ricci che insomma domani niente zainetti, niente panini. Se volete la schiscetta, come dicono a Milano, ve la comprate dentro. Che peraltro, quando eravamo piccoli e si andava col panino allo stadio, quella era davvero una bomba, spesso, non solo calorica, che poteva essere tranquillamente sequestrata dalle forze dell'ordine, ricordo carta oleosa, acciughe al verde, salamelle, cose meravigliose peraltro, cose meravigliose. Però ecco, si poteva discutere sulla forza tellurica, scherziamo per drammatizzare naturalmente. Certo, però questo è chiaro che cambieranno, dovranno cambiare un po' le nostre abitudini per N giorni, per N mesi, speriamo non per N anni, e questo sarà una tassa che dovremo pagare come la paghiamo normalmente anche per entrare all'Expo o per volare. Piuttosto, altro libro, quello delle bufale, Conte che torna alla Juve. Non ci credo neanche se lo vedo. Non ci credo perché lui non è stupido, sa che bravo, uno come lui non può diventare una minestra riscaldata, anche se poi i minestroni del giorno dopo sono qualche volta saporiti. Ma tra l'altro alla Juve hanno sbagliato anche altri grandi, tra Pattoni, lo stesso Lippi, che peraltro vinse anche nella sua seconda avventura bianconera, ma non quanto nella prima, e invece per quanto riguarda la nazionale ha ripetuto in tutte le salse che è stata una fesseria tornare. Io non credo proprio, anche se vi risulta che da Torino e a Torino, che mi piacerebbe l'ipotesi, anche all'interno della Juventus probabilmente non la considererebbe un'eresia, forse no, però non credo che succederà. Non credo che succederà nemmeno io, nonostante i tifosi continuano a premere in quella direzione, però sappiamo bene come i tifosi siano dei gran nostalgici. Quindi. Vabbè, i tifosi l'anno scorso, nella settimana che precedeva Berlino, non si sognavano certo di fare i nostalgici, perché molti pensavano accidenti, però questo Allegri, che personalità, che capacità. Dopo di che gli avevano oltre, sputato addosso, gli avevano buttato le uova sulla macchina, gli avevano dato. È tornato quello di non prima. Dico quello dello sputo del primo giorno, ma con un semi mentecatto che potrebbe essere, se non si ragiona così, ragazzi, è troppo comodo. Senti Maurizio, per finire, io ti propongo invece due film. L'oro di Napoli e un americano a Roma, quale scegli per questo weekend? Scelgo L'oro di Napoli, ma senza l'apostrofo, nel senso essi di Napoli. Essi quindi di Napoli. Non il nome, essi che mi piacciono parecchio perché mi divertono tantissimo. Sì, anche a me, anche se rischiano parecchio, secondo me. Certo, sì, rischiano anche perché a Verona, come dire, a Verona in ogni caso non si passeggia mai. Il Napoli però è una squadra che riesce sempre anche nel momento così, anche quando non vince, mi ricordo della penultima partita trasferta di Genova, insomma, no? E non ha vinto, ha sbagliato un sacco di gol, ma ha divertito tanto. Non lo so se vincerà lo scudetto, però un attacco così non ce l'ha nessuno. Sono d'accordo. Maurizio, grazie come sempre. A te. Ti abbraccio. Ciao Maurizio Crosetti. Allora, adesso tornerei invece alla storia, una delle più belle storie di questo weekend. Beh, ne hanno parlato tutti, ma lo facciamo anche noi. Quella dei portieri. Buffon, 20 anni di Serie A, 20 anni di Porta, e Donnarumma, 16 anni di vita, mi sembra 4 partite, 4 porte in Serie A, ma un futuro che promette di essere lunghissimo. Entrambi ricordano, Donnarumma non era ancora nato nel momento in cui Nevio Scala disse a Buffon, con Bucci infortunato, ma te la senti di andare in campo tu? Mentre Mihajlovic ha detto a Diego Lopez, tu ti siedi, gioca il ragazzino. Sentiamoli, Buffon e Donnarumma. Nevio Scala bussò alla mia porta e secondo me per avere anche per percepire il mio stato d'animo e se magari avrei dato dei segnali di sicurezza oppure dei segnali poco rassicuranti, mi disse: ma te la senti di giocare? In maniera abbastanza sarcastica, con un bel sorriso sulle labbra, e io gli risposi in un modo abbastanza spigliato e dissi: certo, mi disse, secondo te cosa sono a fare qua, no? E per cui questa qua fu una risposta che lo rassicurò. Mi ricordo il giorno prima della partita mi ha chiamato e mi ha detto che veramente giocavo io, e è stato veramente bello, perché non me l'aspettavo, devo dire la verità, non me l'aspettavo, e quindi è stato veramente bello. Io continuo a pensare che, insomma, sia stato un enorme rischio e sia tuttora un enorme rischio per Mihajlovic e per Donnarumma, come lo era stato per parte in epoche diverse per Nevio Scala e per Gigi Buffon, allora appena diciottenne, forse ancora diciassettenne, al debutto nel Parma, perché il portiere è un ruolo particolare. E poi soprattutto per quanto riguarda Donnarumma, difendere la porta, che più una porta è un portone di quelli pesanti in questo momento, da cattedrale, perché nei momenti difficili sappiamo bene per le grandi squadre quanto pesi il pallone, onestamente. Credo che sia un rischio grosso, però se passa attraverso questo rischio, evidentemente Mihajlovic, che non è un fesso, ci ha visto qualcosa in questo bambino. Buffon ne parla, ha parlato del suo giovane avversario di domani sera. Secondo me a 16 anni giochi a San Siro, già solo il fatto che non ritorni negli spogliatoi, non ti nascondi sotto i cartelloni pubblicitari e rimani in porta con quella sicurezza, è già un primo segnale veramente bello di un qualcosa di straordinario, perché poi l'ordinario è una cosa, lo straordinario va segnalato. Ecco, uno che gioca 16 anni nel Milan è un qualcosa di, è un evento veramente straordinario. Cioè, abbiamo un po' la stessa idea, io Buffon non avevo sentito prima questo audio, però è così, non, rimani in porta e non ti vai, non vai nello spogliatoio a nasconderti sotto una panchina. Allora, altro portiere, altro giro, altra storia, quella di Pepe Reina, uno dei segreti peggio nascosti di questo Napoli. Pepe Reina che dice una cosa su quella parola che inizia per S. Ma quella parola lì la possiamo pronunciare o è meglio evitare, perché come dice Sarri è una bestemmia? Mister mi ammazza se dico una cosa del genere, quindi speriamo bene. Noi siamo fiduciosi di lottare per grandi cose, però sicuramente il mio pensiero è difficile vincere la tricolore, vincere lo scudetto, perché sono grandi squadre in giro e la lotta per la Coppa, però noi fino alla fine daremo tutto il nostro impegno per lottare per vincerlo, ovviamente. Omar da Bergamo, velocissimo, buongiorno. Buongiorno, volevo domandarle, Carlo Genta, lei dica. German Dennis, l'oggetto misterioso di Bergamo. Insomma, beh, non era misterioso, perché ha fatto un sacco di gol nell'Atalanta. Bisognerebbe ragionare sul fatto che magari anche per lui gli anni passano. La cosa certa è che l'Atalanta non può prescindere da un giocatore così, cioè da un giocatore che ha fatto quello che Dennis è stato capace di fare a Bergamo. Francamente sembra in calo, sembra in una stagione no, però abbiamo visto spesso, soprattutto al capitolo attaccanti, giocatori riprendersi da stagioni sbagliate. Quindi con Dennis porterei ancora un pizzico di pazienza, ripeto, anche perché in quel disegno lì, che pure Rea sta tratteggiando molto bene, Dennis è fondamentale. Salutiamo ragazzi Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato non c'è Gianmarco Ferronato in regia, c'è Andrea Roccabella, vedete, ormai non capisco più nulla, al venerdì. Giovanni Melchiorre in redazione, ci sentiamo domenica dalle 5 alle 7 con Giovanni Capuano e con tutti i convocati weekend. Ciao. Buonasera Presidente. Quando buonasera lei... Marino, come sta? Col baffetto oggi, guarda che fa un teccaruccio con sta cravatta. Che c'ho da dire, la cravatta di Bertoletti? Poi gliela regalo io la cravatta.